A questa distanza sotto con la danza. Se no ti viene male panza. E mandi un'agenzia dell'ANSA. Se una sirena. Allora mi devo, mi devo legare. Legatemi all'albero al maestro della nave. Stretta la foglia, larga la via, dite la vostra che dico la mia. Stretta la soglia. Stretta la sogliola. Sì, vabbù, ma quando si chiama? C'era un certo signor Soglia, un uomo con un cazzo tanto e tre palle sferiche a forma di piramide. Potremmo mettere... Però possiamo fare una frase in cui dice quando stanno dentro il dentro la fabbrica. Possiamo aggiungerci un pezzo in cui Soglia fa e qua non si muove foglia se Soglia non voglia. Sono banana senza cita, sono mostra senza cita, sono amico senza mica, sono carne senza pita, sono volpe non astuta, sono lingua di una muta, sono brutta come sciuta, sono la terra saluta, sono uscita tu non c'eri, eri c'eri ed ora c'eri, sciolte sopra dei templari, eri ed ora non sei più, sono un meno senza zero, sono zenzero ma nero, sono Silvio ma sincero, ora non mi dai del tu, sono l'orto di chi è morto, sono un arto tutto storto, sono Cristo non risorto, sono neonato senza parto, sono sportello sempre aperto, sono inganno senza torto, dopo cena senza mirto, del tessuto senza sarto, sono uscito dal selciato per cercare il mio passato, l'ho trovato era scaduto, addio penne con ragù, sono calvo con la tinta, sono colombo senza pinta, sono banco nota finta, cioè le corna di la mu.